Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Certamente ha destato allarme, certamente ha creato un problema nella percezione delle persone, ma abbiamo dimostrato che noi ci siamo. Purtroppo la cosa triste che va detta, che poteva accadere comunque, perché è imprevedibile e incalcolabile un atteggiamento di questo tipo, con una violenza ed una ferocia che insomma non ha pari da queste parti. Una violenza e una ferocia che non appare da queste parti, lo ha detto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il questore di Rimini a proposito delle violenze sessuali efferate che ci sono state nella città romagnola, dei quattro giovani, no, che la notte del 26 agosto hanno stuprato una ragazza polacca e una trans peruviana con questa ferocia, dice che non ha pari nel nostro territorio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, avrei voluto ricominciare questa nuova stagione di Effetto Notte, che parte proprio stasera con notizie positive, però tante. Insomma, questa, parleremo anche del caso Regeni, che è tornato a far discutere, perché oggi il ministro degli esteri Alfano ha informato le commissioni esteri di Camera e Senato sul ritorno dell'ambasciatore italiano in Egitto. Poi ci occuperemo anche ovviamente della crisi nordcoreana. Quante belle notizie, direte voi, ma d'altronde il mondo è anche questo, e queste sono le notizie principali di oggi, perché ve lo ricordo, ripartendo appunto la nuova stagione di Effetto Notte, diventa come sempre, ritorna la vostra colonna sonora della sera per essere costantemente aggiornati a fine giornata, scusate il bisticcio di parole, su quelle che sono le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, prima con un riassunto come sempre che vi faccio della giornata e poi con gli ospiti con i quali approfondire alcuni argomenti in particolare. Qualcuno mi scrive già, intanto ringrazio chi saluta del mio ritorno, qualcuno dice troppa assenza tutto agosto, in realtà per i più mattinieri forse si saranno accorti che ho fatto anche questa trasmissione della mattina, le due settimane centrali di agosto, ma cos'è quest'estate, con notizie magari in certi casi anche un po' pochino più leggere, per finire poi con l'ultima puntata purtroppo invece sulla strage di Barcellona, l'attentato di Barcellona. Quindi ricomincia Effetto Notte, allacciate le cinture perché le notizie sono tante e tanti fatti da raccontarvi. Vi ricordo ovviamente che ci sono sempre due vostri canali privilegiati per intervenire con Effetto Notte, che sono la pagina Facebook del programma oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è sempre quello, 349 238 6666. Quindi partiamo con i titoli principali. La crisi nordcoreana, gli Stati Uniti chiedono al Consiglio di sicurezza dell'ONU sanzioni più forti contro la Corea del Nord. Il caso Regeni, l'omicidio del ricercatore è una grave ferita, dice in Parlamento il ministro Alfano, cercheremo la verità ma il rapporto con l'Egitto è ineludibile. Gli stupri di Rimini, la Polonia chiederà l'estradizione dei quattro arrestati. Vaccini, strappo del Veneto che annuncia ci sarà tempo fino al 2019 per presentare la documentazione. La strage del rapido 904 dopo 23 anni dai 16 morti e 267 feriti di Natale, Napoli sul rapido Napoli-Milano, nuove norme e giudice in pensione, quindi stop al processo d'appello che vede come unico imputato Totò Riina. Lutto nel cinema, è morto Gastone Moschin, l'attore aveva 88 anni, nato come attore di teatro, aveva raggiunto la notorietà come interprete della commedia all'italiana, in particolare con Amici miei. E partiamo quindi dalle tensioni internazionali per i programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord. Corea del Nord che è stata oggi al centro del vertice di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo l'ultimo test nucleare di Pyongyang. Intanto Seoul, insomma, nella Corea del Sud, e Washington hanno concordato di incrementare la capacità di difesa. Le più forti misure possibili. Gli Stati Uniti suonano la carica diplomatica contro Pyongyang dopo l'ultima inquietante prova di forza del dittatore Kim Jong-un. Quando è troppo, ha sintetizzato l'ambasciatrice americana all'ONU Nikki Haley intervenendo alla riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza, dove ha lanciato un chiaro avvertimento ai paesi che continuano a fare affari con Pyongyang. Solo le sanzioni più forti possono fermare il regime, ha accusato la Haley, che ha annunciato che Washington farà circolare una bozza di risoluzione da approvare nei prossimi giorni, in linea con la posizione posizione americana, Francia, Gran Bretagna e Italia. Roma ha chiesto lo stop totale e definitivo dei programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord in maniera completa, verificabile e irreversibile. La Corea del Sud, da parte sua, ha chiesto il blocco di tutti i fondi diretti al regime nordcoreano. Gli occhi erano puntati anche sulla Cina, grande protettore del regime di Pyongyang. Pechino ha rilanciato il piano diplomatico russo-cinese per abbassare la tensione nella penisola coreana, portando alla denuclearizzazione. Ha ammesso la Cina che la situazione si sta deteriorando e ha chiesto alla Corea del Nord di fermarsi. Nelle ultime ore l'intelligence sudcoreana ha messo in guardia dai rischi di un nuovo test nucleare possibile in ogni momento e di ulteriori lanci di altri missili balistici intercontinentali tra il 9 settembre e il 10 ottobre. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al caso Regeni. Il ministro degli esteri Alfano, come vi dicevo, ha riferito oggi alle commissioni esteri di Camera e Senato dopo la contestata decisione di rimandare al Cairo il nostro ambasciatore, e di questo, come vi anticipavo all'inizio, parleremo nel corso di questa puntata di Effetto Notte. E poi gli stupri di Rimini della scorsa settimana. Il governo polacco ha annunciato che chiederà l'estradizione dei 4 presunti responsabili. È importante che i responsabili siano puniti severamente. Per questo la Polonia chiederà l'estradizione dei 4 aggressori. È perentorio nella sua richiesta il vice ministro polacco della giustizia Patryk Jaki, che in TV rassicura l'interesse del governo sulla vicenda che ha coinvolto 2 connazionali non accenna a diminuire. Intanto in Italia le indagini vanno avanti. I 4 ragazzi arrestati sono accusati di violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate. Per i 3 minorenni la procura chiederà la custodia cautelare in carcere. Per loro l'udienza di convalida è attesa per domani, così come per il capo del gruppo, unico maggiorenne. Lui avrebbe detto agli investigatori di riconoscersi nelle immagini delle telecamere di sicurezza, ma nega qualsiasi coinvolgimento nelle violenze. Gli altri hanno confessato, quasi senza rendersi conto della brutalità della loro violenza, come ha spiegato a Effetto Giorno Francesca Capaldo, dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Mi ha colpito l'apparente fragilità di questi ragazzini piccolissimi e soprattutto il fatto che non avessero contezza reale di quanto fatto. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto, sempre collegata a questa notizia, è stato licenziato dalla cooperativa per la quale lavorava il mediatore culturale che all'indomani appunto degli stupri di Rimini, vi ricorderete, aveva scritto su Facebook un commento nel quale sosteneva che lo stupro è peggio solo all'inizio perché poi la donna si calma e si abitua. Vaccini, tema sempre caldissimo, perché in attesa dell'esito del ricorso contro la legge presentato dalla Regione Veneto alla Consulta, la Regione Veneto appunto ha annunciato che ci sarà tempo fino all'anno scolastico 2019-2020 per presentare tutta la documentazione vaccinale per i bimbi da 0 a 6 anni ed evitare la decadenza dell'iscrizione dagli asili nido e infanzia. Questo è quanto prevede il decreto appunto della Regione Veneto, che predispone le indicazioni regionali in regime transitorio di applicazione della legge Lorenzin, firmato dal direttore generale della Sanità Veneta Domenico Mantoan. E proprio oggi il presidente della Regione Lombardia Maroni ha fatto sapere invece che intende prendere tempo sulla deroga che aveva annunciato. Ha parlato di 40 giorni, però dice: prendo tempo, non voglio lo scontro col governo, vogliamo risolvere il problema con la leale collaborazione tra istituzioni. E intanto riprende il viaggio di Radio 24 per fare chiarezza sul decreto vaccini. 10 settembre e 31 ottobre, queste le due date da segnare in rosso sul calendario. Scadenze tassative, non ci sarà nessuna proroga, ha chiarito lo stesso ministro dell'istruzione Fedeli, e ormai imminenti, in particolare per i genitori dei bimbi più piccoli, quali entro pochi giorni dovranno presentare alle segreterie scolastiche i documenti vaccinali necessari pena esclusione dal servizio educativo. Avranno invece più tempo, quasi 2 mesi, le famiglie degli studenti delle scuole elementari, medie e biennio del liceo. I documenti da presentare sono il libretto vaccinale rilasciato dall'ASL, che attesti le 10 vaccinazioni ritenute obbligatorie, ma potrà valere in questa fase transitoria anche la prenotazione di visita vaccinale all'ASL o la prova di averla richiesta. In questi casi occorrerà poi mettersi in regola entro il 10 marzo. Ma cosa succede in caso di inadempienza? Per i bambini di asilo nido e scuola dell'infanzia è previsto l'allontanamento dalle strutture, non potranno più frequentare finché non si metteranno in regola regola. Per gli scolari degli altri gradi di istruzione invece è diverso, potranno continuare a farlo. In ambedue i casi i genitori saranno comunque invitati dalla ASL a regolarizzare la loro posizione e rischiano sanzioni da 100 a 500 euro. Le vaccinazioni obbligatorie, lo ricordiamo, sono 10 e suddivise in esavalente, antipolio, tetano, difterite, epatite B per tosse emofilo e tetravalente, parotite, rosolia, morbillo, varicella, due uniche iniezioni più le dosi di richiamo, tutte gratuite. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vi ricordo tra l'altro che appunto proseguo il viaggio tutti i giorni su Radio 24, nei vari giornali radio e anche Effetto Giorno, Effetto Notte. Poi venerdì voi raccogliete un po' le vostre domande, i vostri dubbi sui vaccini, perché cercheremo di fare un po' il punto anche qui a Effetto Notte. Vi ricordo sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. La strage del rapido 904, questa notizia con dei risvolti almeno apparentemente paradossali, perché deve ripartire da zero il processo d'appello a Firenze per la strage del rapido 904 o strage di Natale del 1984, che vede come unico imputato Totò Riina. Dopo 23 anni dai 16 morti e 267 feriti sul treno Milano-Napoli nella galleria dell'Appennino, il processo è stato rinviato a data da destinarsi per la combinazione tra le nuove norme penali e l'imminente pensionamento del presidente della Corte, Salvatore Giardina. Poi cercheremo un po' di chiarire questa situazione, appunto, che dicevo, apparentemente paradossale. E arriviamo così a parlare di pensioni. Da Palazzo Chigi arriva il via libera all'anticipo pensionistico volontario che decorre dal 1 maggio 2017. È un decreto a firma del Presidente del Consiglio Gentiloni a rendere di fatto operativa la cosiddetta APE volontaria, l'anticipo pensionistico destinato a chi ha almeno 63 anni di età e 20 di contributi. Il diritto decorre dal 1 maggio di quest'anno ed è retroattivo. Chi quindi aveva maturato i requisiti già 4 mesi fa potrà presentare la domanda chiedendo le mensilità dei mesi pregressi. Sempre da Palazzo Chigi fanno sapere che entro un mese dal decreto dovranno essere stipulate le convenzioni con banche ed assicurazioni. È stato ipotizzato un tasso per il prestito del 2,8%, ma i costi reali dovrebbero risultare inferiori considerando l'abbattimento fiscale del 50%, tanto degli interessi quanto dei premi. Il decreto prevede che se il richiedente ha altri debiti in corso con le banche, l'esposizione comprensiva della rata dell'APE non possa superare il 30% dell'assegno previdenziale. L'importo minimo richiedibile sarà di 150 euro mensile, mentre l'importo massimo è legato alla durata dell'anticipo pensionistico. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una notizia che riguarda l'energia elettrica e la sentenza della Cassazione, che spiega che appunto l'energia elettrica non è un bene indispensabile alla vita e chi si allaccia abusivamente alla rete sostenendo di non avere i soldi per la bolletta non può essere scusato per aver agito spinto dallo stato di necessità. Quindi i giudici motivano in questo modo e confermano una condanna per furto di energia elettrica nei confronti di una donna pugliese dichiaratasi sfrattata, senza lavoro e con una figlia incinta. E poi abbiamo il cinema, il Festival del Cinema di Venezia, è stato il giorno oggi del secondo film italiano in concorso, ma c'è già un film ambientato in Missouri che ipoteca un premio importante. What's along what you can and cannot say on a billboard? I think I'll be all right then. Pioggia di applausi, c'è chi parla già di Leone e comincia a invocare l'Oscar. È sicuramente il film migliore finora a Tre manifesti a Ebbing, Missouri, commedia nera diretta e scritta dalla regista premio Oscar Martin McDonagh. È la storia di Mildred, Frances McDormand, che ingaggia una dura lotta contro la polizia locale che non trova il colpevole dell'omicidio della figlia adolescente. Noleggia tre cartelloni pubblicitari sui quali piazza tre messaggi contro le indagini inconcludenti. Pregiudizi, razzismo, violenza, omofobia, ma molte risate. Da una madre all'altra, accoglienza molto tiepida invece per Una famiglia di Sebastiano Riso, in concorso. Ispirato a storie vere di vendita di neonati con Micaela Ramazzotti. Ancora ovazioni invece per Un grande maestro a Venezia, John Landis, qui per presentare il restauro in 3D di Thriller di Michael Jackson. Thriller è qualcosa di cui Michael e io andavamo molto fieri, racconta John Landis. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia. E purtroppo c'è anche un lutto nel cinema. Lei ha claxonato. Tu ha claxonato? Io no. Ah sì, ho appoggiato appena il gomito. È un claxon sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così. Non è possibile. Come no? Prova. Fa un po' vedere. Davvero? Il mio invece è duro. Insomma, è morto Gastone Moschin, l'attore che aveva 88 anni, era nato l'8 giugno 1929, è nato come attore di teatro, aveva raggiunto però la notorietà al cinema come interprete della commedia all'italiana, diretto da registi come Anton Giulio Maiano, Damiano Damiani, attore poliedrico, si è posto al grande pubblico, soprattutto ne abbiamo sentito uno spezzone della varia saga di Amici miei con, fra gli altri, Noiré, Celi, Tognazzi, il film diretto da Mario Monicelli che poi diventa appunto una saga nella quale interpreta il ruolo dell'indimenticabile architetto Melandri. Per chiudere anche un po' di sport, perché dopo la sconfitta per le qualificazioni mondiali dell'Italia contro la Spagna, domani l'Italia gioca contro Israele e sentiamo poco fa in conferenza stampa il tecnico, il CT Ventura, che cosa ha detto. Sono termini un po' enormi, no? È chiaro che ci si aspetta tutti, sia così come sapevamo che sarebbe stato difficile andare direttamente, perché in realtà in un girone in cui se ne qualifica una sola, e avendo la Spagna a testa di serie sarebbe stato difficile, così siamo anche consapevoli che abbiamo la possibilità di andarci attraverso i playoff, e quello è quello che noi faremo. Insomma, diciamo, non si perde la speranza, dice domani andiamo per vincere. Allora, adesso invece ci fermiamo per aggiornare chi sta viaggiando, come sempre a questo punto, poi tra poco ci sono gli ospiti sui vari argomenti. Ringrazio i vari messaggi che stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666 per il bentornata, visto che vi ricordo che ricomincia da stasera la nuova stagione di Effetto Notte, c'è Tani da Massa, Beatrice, poi Andrea da Udine, Giuseppe, gli altri ascoltatori, anche quelli che non si firmano. Quindi aggiornamenti per chi viaggia tra poco. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin nel banco freezer. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi in questa prima puntata della nuova stagione di Effetto Notte. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure per WhatsApp ed SMS il 349-238-6666. C'è per esempio Walter, a cui potremo rispondere probabilmente tra poco, che dice a proposito della crisi nordcoreana: ma Kim Jong-un, oltre a minacciare di far esplodere bombe atomiche, lanciare missili verso il Giappone, deve farsi crescere i baffetti e invadere la Polonia prima che la comunità internazionale si accorga del pericolo che corriamo? Poi con il nostro ospite di ci sarà tra poco, magari cercheremo anche di rispondere ovviamente a una domanda di questo tipo. Però prima di tutto, se non avete acceso puntualmente, ve lo ricordo che Effetto Notte inizia alle 21, vi ricordo comunque i titoli principali. Allora, Stati Uniti e Cina chiedono all'ONU, oggi è stata la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza, di fermare la Corea del Nord. Quando è troppo, ha detto l'ambasciatrice americana. La Corea del Sud avverte un nuovo test nucleare possibile in ogni momento. E poi sulla vicenda Regeni, Alfano, il ministro degli esteri, oggi ha informato il Parlamento dicendo che il governo farà di tutto per cercare la verità, ma che è ineludibile comunque un rapporto diplomatico con l'Egitto, ecco perché torna l'ambasciatore. E poi il Ministero degli Esteri sugli sgomberi ha deciso di fare una mappatura delle case inutilizzate, di tutelare i disagiati. Poi per quanto riguarda la politica, c'è il presidente della regione Sicilia, Crocetta, che rinuncia alla sua nuova candidatura, insomma, per quanto riguarda il centro-sinistra, e oggi ha incontrato Renzi, sarà probabilmente candidato al Senato. Gli stupri efferati di Rimini, la Polonia chiede l'estradizione dei fermati, la procura di Bologna intanto chiederà il carcere per i tre minorenni. Nuove norme e un giudice in pensione provocano lo stop al processo di appello per la strage del Rapido 904, anche di questo parleremo. Vaccini, il Veneto decide la moratoria, sospensione quindi del decreto Lorenzin fino al 2019, dovevo parlare anche di questo argomento, ma né Zaia, il presidente della regione Veneto, né l'assessore regionale alla salute sono voluti intervenire questa sera. E poi, così, una notizia anche, diciamo, un po' più leggera, arriva il terzo Royal Baby, annuncio a sorpresa da Kensington, quindi la Gran Bretagna. La regina è felicissima per il nuovo figlio, bambino in arrivo per William e Kate. E quindi Quindi cominciamo con il primo argomento e il primo ospite dalla crisi coreana, o meglio la crisi sul programma nucleare missilistico della Corea del Nord. Ieri il regime di Kim Jong-un ha testato una bomba nucleare all'idrogeno e ora la Corea del Sud è, ovviamente come si può immaginare, lì attaccata di sotto, in stato di massima allerta dopo aver captato segnali di preparativi del lancio di un missile intercontinentale. Poche ore fa, quindi, che cosa ha fatto? Seul ha dispiegato le forze armate che hanno condotto un'esercitazione simulando un attacco contro un sito nucleare nordcoreano. Insomma, si sta preparando ogni evenienza, lo ha fatto con l'utilizzo di caccia F-15 e di un missile balistico. Intanto è arrivata la forte e decisa critica e condanna dei leader del G7, dei grandi paesi occidentali del G7, che condannano, dicono nei termini più forti possibili, il nuovo test nucleare. E oggi, per capire un po' come deve reagire la comunità internazionale, si è riunito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, una riunione di emergenza. Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Fetterman, ha detto: quello effettuato dalla Corea del Nord è il test nucleare più potente mai realizzato in precedenza. Quindi, come si dice, è stata proprio un'escalation fino a ieri. E ha detto: le gravi violazioni delle risoluzioni ONU e dei trattati internazionali da parte del regime di Pyongyang sono gravissime. E l'ambasciatrice americana Nikki Haley ha dichiarato nel corso di questa riunione che gli Stati Uniti puntano a tenere il voto degli altri stati e del Consiglio di Sicurezza sulle nuove sanzioni più severe nei confronti della Corea del Nord per lunedì prossimo, perché ha detto l'ambasciatrice americana: quando è troppo. Diverso il parere di Russia e Cina, che invece insistono sulla via diplomatica. Poi c'è stato, se vogliamo aggiungere anche una nota di colore, il senatore Razzi, che conoscerete, che si è offerto di mediare. Lui, sapete che cosa è stato l'anno scorso, 2 anni fa, era stato in Corea del Nord dicendo che era bella e pulita e ordinata come la Svizzera. Ne parliamo con Riccardo Alcaro, che è responsabile per la ricerca dell'OIAI, dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alcaro. Buonasera. Quindi la domanda che ci si continua a porre, no, man mano che sono sempre più forti e pericolose queste provocazioni di Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, la domanda che ci si pone è: sono, diciamo, delle prove di forza, delle prove muscolari, quindi delle azioni tattiche per dimostrare qualcosa, per ottenere qualcosa in realtà, per arrivare a un tavolo di negoziato, oppure è veramente pazzo, come sembra a molti? No, direi che Kim non è pazzo, o quantomeno il regime nordcoreano non è accusabile di irrazionalità, diciamo così, quindi di comportamento irrazionale. Certamente una componente della strategia del regime nordcoreano è quello di apparire imprevedibile e quindi di apparire, fra virgolette, pazzo. Questo per aumentare la pressione, aumentare l'incertezza e crearsi maggiore influenza nell'eventualità in cui effettivamente voglia arrivare a un tavolo negoziale in cui chiedere qualcosa di sostanziale. Però, questo è una interpretazione naturalmente, però basata sull'analisi del comportamento del regime nordcoreano negli ultimi 20-25 anni, quindi da quando si è imbarcato in questo programma nucleare missilistico, e in particolar modo da quando Kim Jong-un, il terzo della dinastia Kim, ha salito al potere qualche anno fa. Quindi naturalmente non è che io ho una diagnosi medica, clinica di Kim, che probabilmente in quella situazione in cui è tanto stabile, tanto equilibrato di mente, non è sicuramente megalomane, però il regime e lo stesso Kim non è stupido e soprattutto non è suicida, e questo è il punto centrale. In risposta al commento che lei ha letto prima dell'ascoltatore, ma non vi capite che siamo di fronte a un nuovo Hitler, interveniamo, eccetera. Quello di Walter, sì, d'accordo. Esatto. Capisco da dove viene il commento, però la lettura è completamente sbagliata. La Germania nazista era uno Stato molto potente militarmente, in grado di soggiogare i suoi vicini militarmente e aveva un progetto di effettiva conquista. La Corea del Nord, per quanto sia per quanto abbia forze militari del tutto rispettabili, cioè in grado di infliggere effettivi danni, anche danni colossali, se veramente riesce a mettere una testata nucleare su un missile sui suoi vicini, non ha in nessun modo né la capacità, ma né tantomeno la volontà di invadere e soggiogare i suoi vicini. Ma le dirò di più, non ha nessun tornaconto nell'attaccare lei per prima uno degli stati vicini, che poi sarebbero la Corea del Sud o il Giappone, perché Russia e Cina, diciamo, non rientrano nei possibili bersagli della Corea del Nord, o addirittura uno dei territori pacifici degli Stati Uniti. A questo proposito, Alcaro, mi scusi, perché sappiamo che Trump già ogni volta che c'è stato il lancio di un missile, no, e anche i vari test, anche in questo caso nucleare, insomma, Trump ha detto faremo fuoco e fiamme, insomma, ha parlato di reazioni enormi, imminenti, nel caso appunto ci fosse stato un altro atto provocatorio da parte di Kim Jong-un. Però sappiamo che se mai succedesse una cosa del genere sarebbe poi una concatenazione di eventi terribili, no? Perché i primi a rimetterci sarebbero i coreani del sud, quindi ci sarebbero milioni di morti, anche in qualche modo il Giappone. Quindi, per esempio, il ruolo degli Stati Uniti a questo punto, no, nessuno si nasconde che un intervento degli Stati Uniti provocherebbe un disastro. Bene, sempre però per finire di rispondere al commento di Walter, che è poi, diciamo, finendo di rispondere, rispondo a questa domanda che mi ha appena fatto. E perché non si interviene militarmente contro uno Stato che, per quanto, diciamo così, abbia le sue risorse militari, certamente non ha le capacità di resistere alla forza militare degli Stati Uniti, per non parlare degli Stati Uniti e dei loro alleati. Proprio per il motivo di cui parlava lei, la possibilità di un'escalation militare degli Stati Uniti, probabilmente se dovesse intervenire militarmente, cosa che io non ritengo in questo momento prossima, interverrebbero probabilmente con un attacco mirato, un attacco cosiddetto chirurgico contro centri nucleari, contro siti militari, non farebbero una, diciamo, un'operazione di invasione stile Iraq 2003. Però c'è sempre questo, ovviamente porterebbe a una rappresaglia di una qualche forma da parte della Corea del Nord, che sono in grado di anticipare finché non vedo che tipo di attacco farebbero gli americani. E questo potrebbe senz'altro innescare un'escalation in cui sicuramente i sudcoreani, che hanno la loro capitale Seoul, la cui area metropolitana ospita circa 20 milioni di abitanti se non di più, è a 40-50 chilometri dal confine con la Corea del Nord, quindi non solo sotto il raggio dei missili nordcoreani, ma sotto il raggio dei pezzi di artiglieria nordcoreani. Quindi sicuramente ci sarebbero probabilmente vittime civili nell'ordine di migliaia, anche in un conflitto contenuto. Quindi, Alcaro, per sintetizzare, le volevo chiedere, quindi, l'obiettivo principale, proprio in sintesi, perché lo stanno scrivendo vari ascoltatori e ascoltatrici, di Kim Jong-un, e poi anche il ruolo della Cina, che al di là della Russia forse il vero partner è quello che potrebbe davvero intervenire in qualche modo per arginare le intenzioni di, diciamo, non pacifiche di Kim Jong-un, sarebbe proprio la Cina. Quindi, da una parte, ci sono due possibili interpretazioni del comportamento di Kim. Sì. La prima è che tutto questo, cioè tutte le i test missilistici e quello nucleare di ieri siano da leggere in chiave di provocazione, cioè io provoco per ottenere per spingere i miei, diciamo così, i miei controparti, gli Stati Uniti in particolar modo, a un tavolo negoziale in cui io arrivo con una certa influenza. Io sinceramente non credo ormai che questa sia più un'interpretazione veramente sostenibile. Non è da escludersi che possa valere in un futuro, però a me sembra più plausibile l'interpretazione seguente. I test missilistici e quello nucleare sono in primo luogo un modo per intimidire gli alleati americani e gli americani stessi, per dire guardate, io ho le capacità per farvi male, e in secondo luogo, la cosa più importante di tutti, per effettivamente testare le capacità militari, perché l'obiettivo di Kim è sopravvivere, è la sopravvivenza del suo regime, e il regime nordcoreano con Kim, o con, diciamo, l'entourage attorno a Kim, sembra avere deciso che la garanzia di ferro che il regime non verrà mai rovesciato dagli Stati Uniti è quello di ottenere un missile balistico intercontinentale con sopra montata una testata nucleare. Chiaro. Quindi, secondo me, fino a che lui non arriva a quel punto, non si ferma. Non si ferma. La Cina, in sintesi, che cosa dovrebbe, cosa potrebbe, cosa dovrebbe fare? Beh, diciamo che dal punto di vista degli americani, la Cina dovrebbe fare un embargo petrolifero, perché la Corea del Nord dipende praticamente per intero dai fornimenti energetici e anche alimentari che vengono dalla Cina. Quindi per gli americani il discorso è semplice: la Cina non vuole una Nord Corea armata di armi nucleari, non vuole una instabilità nell'area, bene, è l'unica che può fare, non vuole una guerra fra America e Nord Corea, agisca così. Ma per la Cina c'è un altro obiettivo confliggente. La Cina da una parte non vuole certo la Corea del Nord così com'è, un Kim così provocatorio, un Kim così intimidatorio, ma dall'altra la Cina ha come obiettivo ancora più importante quello di evitare il collasso del regime. Perché per quanto scomodo, quel regime è un cuscinetto fra lei e la Corea del Sud, cioè fra lei e uno Stato che è nell'orbita di influenza americana. Se si dovesse arrivare a una guerra che portasse alla fine del regime nordcoreano, l'incubo della Cina e non solo i milioni di rifugiati che si riverserebbero nel suo territorio, ma una riunificazione della penisola coreana, che ovviamente sarebbe un'unificazione della parte nord alla parte sud, filo occidentale e filo americana, e quindi una Corea riunificata con presenza militare americana, così come l'America e la Corea del Sud. Leggo, e poi con questo chiudo, ci dobbiamo lasciare, una dichiarazione di poco fa della Svizzera che si dice pronta a mediare nella crisi nordcoreana. Improvvisamente la neutrale Svizzera, di cui non si parla mai, viene fuori su questa cosa. L'ho detto oggi la presidente della Confederazione, Doris Leuthard, che dice: siamo pronti a proporre i nostri servizi quali mediatori, citata dalla Reuters, e dice: ora di sedersi intorno a un tavolo, siamo pronti a offrire il nostro ruolo di buoni servizi come mediatori. Ma insomma, non so se sia il caso. Comunque più stati ci sono che vogliono mediare, che vogliono, no, trovare in qualche modo una negoziazione, un compromesso, forse meglio è. Comunque insomma, piuttosto curiosa questa uscita improvvisa della Svizzera. Riccardo Olcaro, la ringrazio e buona serata. A voi. Grazie. Buonasera. Grazie. Ci prendiamo una piccola pausa, come sempre, a questo punto. Voi raccogliete le vostre idee, i vostri commenti al 349-238-6666, li potete inviare oppure alla pagina Facebook di Effetto No. Ci sentiamo a momenti. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai la sapete da tempo, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice che con voi ritorna appunto da questa sera con la nuova stagione di Effetto Notte. Abbiamo parlato molto ampiamente della crisi nordcoreana, adesso ci sono gli altri ospiti e gli altri argomenti. Vi ricordo molto velocemente i titoli principali, vi ricordo anche che per le vostre opinioni c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Molti messaggi sulla Corea del Nord, altri bentornata, grazie a Marco da Vignola, a Giuseppe, ad Antonio, a Francesca. Insomma, tanti sono i nomi. Le notizie principali, appunto la crisi nordcoreana, con gli Stati Uniti che chiedono al Consiglio di sicurezza dell'ONU sanzioni più forti contro la Corea del Nord, il caso Regeni, di cui parleremo tra pochissimo, gli stupri di Rimini con la Polonia che chiederà l'estradizione dei 4 arrestati, capiremo se è possibile, vaccini, lo strappo del Veneto che annuncia ci sarà tempo fino al 2019 per presentare la documentazione, poi la strage del Rapido 904 dopo 33 anni e 16 morti, 267 feriti sul treno Napoli-Milano, nuove norme e il giudice in pensione fermano il processo d'appello, e poi il lutto nel cinema, è morto Gastone Moschin. Il caso Regeni dunque, che ritorna a fare discutere, perché oggi il ministro degli esteri Alfano in Parlamento ha riferito della decisione di far tornare l'ambasciatore italiano in Egitto, ha detto il governo italiano si impegna a cercare la verità ovunque, anche a Cambridge, che è l'università britannica che ha commissionato il lavoro del ricercatore italiano trovato morto e orrendamente torturato al Cairo 9 mesi fa, dice è impossibile per l'Italia non avere rapporti diplomatici con l'Egitto, che è un partner ineludibile. Lo vogliamo sentire un passaggio di Alfano oggi in Parlamento? Il giorno del ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Regeni, quel tragico 3 febbraio del 2016, i rapporti bilaterali hanno subito inevitabilmente un duro colpo. L'omicidio di Giulio Regeni è una grave ferita per le nostre coscienze, per tutti noi e per l'intero Paese. E sentiamo che cosa dice a proposito della necessità di mantenere rapporti con l'Egitto sui flussi migratori, per gestire i flussi migratori e anche la lotta al terrorismo. Su questi temi l'Egitto è un partner ineludibile dell'Italia, esattamente quanto l'Italia è un partner imprescindibile per l'Egitto, la cui sicurezza e stabilità economico-sociale sono per noi fondamentali. Dobbiamo prendere atto che è oggettivamente impossibile per paesi dirimpettai nel Mediterraneo, con così numerose e impegnative sfide in comune, di non avere un'interlocuzione politico-diplomatica di alto livello. E sentiamo anche invece l'attacco dell'esponente del Movimento 5 Stelle di Battista. Una vergogna, si deve vergognare. Dovevate immediatamente convocare o la commissione o l'aula di Montecitorio del Senato il giorno dopo, anzi prima dell'invio dell'ambasciatore, perché questo non lo sapevamo, non se n'è mai discusso qui in commissione, non se n'è discusso a Montecitorio o nel Senato della Repubblica. Ne parliamo con Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, che ha seguito il caso di Giulio Regeni sin dall'inizio. Buonasera Marchesi. Buonasera. Allora, l'ha sentito Alfano, dice che è impossibile non avere un rapporto diplomatico con l'Egitto, anche proprio per riuscire ad arrivare prima o poi alla verità, perché se si rompono le relazioni diplomatiche ancora meno si ha questa possibilità. Sì, questa è la tesi sostenuta dal governo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Noi non siamo convinti che dopo avere ritirato l'ambasciatore, rimandarlo possa servire a questo scopo. Non ci è stato spiegato perché, francamente, le reazioni che si sono avute al Cairo già, diciamo, nei mesi in cui questa ipotesi veniva ventilata sembravano indicare tutt'altro, cioè sembravano indicare sia i giornali filogovernativi che quelli indipendenti che il rientro dell'ambasciatore italiano al Cairo avrebbe significato la chiusura della vicenda, insomma una tempesta finita, un caso chiuso. Speriamo che non sia così, però diciamo al momento non ci è stata data nessuna spiegazione articolata, convincente dell'utilità del rientro del nostro ambasciatore, che poi possa servire o debba servire ad altri scopi, questa è un'altra questione, ma allora ci si dica semplicemente che purtroppo la ricerca di verità e giustizia di Giulio Regeni è stata sacrificata da altri interessi, che saranno sicuramente interessi molto importanti, non lo metto in dubbio, ma non si usi questo argomento. Marchesi, per chiudere in sintesi, anche il Presidente del Senato Grasso ha detto senza rapporti con l'Egitto è difficile avere giustizia. Che cosa pensa che possa essere una possibile soluzione? Perché se si rompessero definitivamente i rapporti con l'Egitto si farebbe capire all'Egitto naturalmente che noi non tolleriamo una situazione del genere dopo così tanto tempo continuare un po' a essere presi in giro. Però qual è la strada alternativa? Ma guardi, in realtà è stato il governo ormai parecchi mesi fa a decidere di puntare tutto sul ritiro dell'ambasciatore. Non sono state fatte tutta una serie di altre cose che si sarebbero potute fare, non è stata portata la questione in sede Nazioni Unite, sul piano multilaterale non è stato fatto nulla che io sappia, e quindi a un certo punto si diceva rientri l'ambasciatore ma si facciano delle altre cose. Ricordo che la Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite, di cui sia l'Egitto che l'Italia sono parti, prevede anche dei meccanismi di arbitrato internazionale, di ricorso, di soluzione delle controversie, e nulla di tutto questo è stato tentato. Quindi a questo punto evidentemente l'alternativa era solo ambasciatore sì, ambasciatore no, e ci siamo infilati in una sorta di vicolo cieco. Quello che è certo è che diciamo, la società civile italiana in buona parte continua a chiedere che si cerchi la verità e la giustizia, e purtroppo anche quelle misure che sono state descritte da Alfano, l'intitolare una ipotetica università italo-egiziana Giulio Regeni, tendono diciamo a spostare la questione sul piano della commemorazione, mentre a meno di 2 anni dalla tragica morte di Giulio Regeni noi vorremmo che si cercasse ancora la verità. Grazie Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Ci prendiamo, anzi aggiorniamo chi sta viaggiando e subito dopo l'altro argomento. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi sintetizzo in pochi secondi, le più importanti, ne abbiamo parlato, la crisi nordcoreana con gli Stati Uniti che oggi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU nella riunione d'emergenza hanno chiesto sanzioni più forti contro la Corea del Nord. Poi il caso Regeni di cui ci siamo appena occupati, l'omicidio del ricercatore è una grave ferita, dice in Parlamento il ministro Alfano, cercheremo la verità ma il rapporto con l'Egitto è ineludibile. E poi sul caso vaccini, il Veneto che decide che di dare una proroga fino al 2019 per presentare la documentazione e gli efferati stupri di Rimini di cui parliamo adesso. Ne parliamo con il professor Marco Pellissero, docente di diritto penale all'Università degli Studi di Torino. Buonasera professore. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, abbiamo parlato a lungo delle efferate violenze di Rimini, la procura per i minorenni di Bologna chiederà il carcere per i tre giovanissimi accusati del doppio stupro di Rimini, il quarto che è stato arrestato e accusato è maggiorenne e la notizia di oggi è che la Polonia chiederà l'estradizione dei quattro arrestati perché, come sapete, una delle due persone, due donne, una è una transessuale, l'altra è una ragazza polacca che è stata violentata veramente, se avete sentito anche prima il questore con efferata violenza, con una ferocia senza pari, ha detto. E la Polonia ha chiesto insomma che siano, proprio perché si tratta di cittadini, poi c'era un ragazzo con lei che è stato anche violentamente picchiato, chiede che siano estradati nel proprio paese. Allora la domanda che ci si pone a questo punto è una cosa fattibile, applicabile, professor Pellissero, questa? Guardi, qui si tratta solamente al momento di una dichiarazione, ho visto da quanto letto, del vice ministro della giustizia, il quale ha annunciato che chiederà l'estradizione, pare ci sia un'inchiesta interna alla Polonia sui fatti accaduti in Italia. Allora, di per sé il fatto che venga richiesta l'estradizione per fatti commessi all'estero non è anomala, nel senso che tutti gli ordinamenti, i sistemi penali sono fondati sul principio di territorialità, per cui hanno la giurisdizione sui fatti commessi sul loro territorio, però a certe condizioni la legge di quello Stato può applicarsi anche a fatti commessi all'estero. Ad esempio, un fatto di questo tipo commesso all'estero a danno di un cittadino italiano, fosse nel caso appunto dell'Italia, potrebbe dar luogo ad una richiesta di estradizione. Quindi di per sé la richiesta di estradizione non è anomala, perché dipende proprio da come, diciamo, si intrecciano i diversi ordinamenti, per cui su questo fatto c'è ovviamente la competenza dell'autorità giudiziaria italiana, ma può esserci anche la competenza dell'autorità giudiziaria polacca. Non mi chieda se ci sono i presupposti perché la Polonia possa effettivamente chiedere, sulla base della disciplina polacca, del codice penale polacco, se possa chiedere l'estradizione per i fatti commessi in Italia. C'è però un problema, e cioè il problema nasce non tanto dal fatto che la Polonia chieda l'estradizione, ma dal fatto che allo stesso tempo l'Italia deve pronunciarsi sulla richiesta, qualora questa venisse effettivamente presentata. Perché qui scatterebbe una preclusione, che c'è un articolo nel codice di procedura penale, l'articolo 705, che prevede che non possa essere concessa l'estradizione laddove per lo stesso fatto in Italia si proceda. Se c'è un processo penale che sta accertando i fatti degli stupri di Rimini, l'autorità giudiziaria italiana, a fronte di una richiesta della Polonia, deve rispondere che non può procedere alla richiesta di estradizione perché per quei fatti sta procedendo l'autorità giudiziaria italiana. Quindi secondo me qui c'è una situazione, ci sarà, se effettivamente venisse presentata la richiesta della Polonia, non vedo spazi perché l'Italia possa concedere l'estradizione, visto il tipo di disciplina che è prevista nel nostro sistema. Quindi Marco Pellissero, insomma, bisogna capire un po' quale sarà la risposta italiana, nel senso che dice la richiesta da parte della Polonia è legittima, visto che si trattava dei due cittadini, in particolare della cittadina, certo, che sono appunto originari della Polonia, però bisogna vedere l'Italia che cosa risponde, se già si fa un processo in Italia, quindi non è possibile poi estradarli. Aggiungo ancora una cosa, bisognerà verificare innanzitutto se ci sono le condizioni perché la Polonia faccia effettivamente questa, presenti effettivamente questa richiesta, e quello lì lo valuterà adesso il governo polacco, l'autorità giudiziaria polacca. In Italia, ad esempio, il procedimento di estradizione è particolarmente articolato perché prevede una richiesta del Ministro della Giustizia, ma anche una derivazione da parte della Corte d'Appello sui presupposti giuridici per poter concedere l'estradizione. Quindi è una procedura particolarmente articolata. Credo che ci sia una situazione analoga da un punto di vista di disciplina anche nel sistema polacco. Però difficilmente non vedo spazi perché la richiesta possa essere accolta. Tra l'altro qui si tratta, aggiungo ancora una cosa, si tratta di per tre imputati di minorenni. Quindi la situazione diventa ancora più delicata perché l'estradizione dei minorenni ha condizioni, diciamo così, ancora più ristrette. La Cassazione richiede una verifica molto attenta sul grado di garanzie che vengono richieste in un altro sistema. Però a prescindere da questo, manca, a mio avviso, uno dei presupposti per poterla concedere. Anche se effettivamente probabilmente non se ne farà nulla, insomma, avrei molti ascoltatori, sì, scrivono forse lì riceverebbero una punizione congrua, mentre in Italia insomma si ha poca fiducia nella giustizia italiana, insomma questo è bene. Le pene sono elevate anche nel sistema italiano, quindi se nel sistema polacco siano previsti comunque insomma capiremo nei prossimi giorni se verrà accolta questa richiesta oppure no. Intanto grazie professor Pellissero. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buona serata. A proposito di giustizia italiana, invece, con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Chiariamo se davvero deve ripartire da zero il processo d'appello a Firenze per la strage del Rapido 904 avvenuta il 23 dicembre 1984 con 16 morti, 267 feriti. Diciamo che molto andrà rifatto. Che cosa è successo in sostanza? Che quando ormai era prossimo alla sentenza, che addirittura secondo il calendario era prevista per la settimana prossima, praticamente adesso è stata rinviata a data da destinarsi. Per quale ragione? Perché a luglio è entrata in vigore una legge, la riforma della giustizia appunto del ministro Orlando, che stabilisce che nel momento in cui la procura fa ricorso contro un'assoluzione di primo grado, e in questo caso in primo grado Totò Riina, che l'unico imputato, era stato assolto, bisogna riascoltare di nuovo in aula i testimoni principali. Peccato che però in questo processo il presidente della Corte d'Assise d'Appello ora va in pensione e quindi non ci sarebbe la possibilità di riascoltare tutti quanti i testimoni. Ovviamente ogni giudice deve poter, diciamo, farsi personalmente la sua idea, acquisire le prove di quei che avvengono in dibattimento, quindi bisognerà riascoltare i testimoni principali, ma questo lo potrà fare soltanto il nuovo giudice, che non si sa quando verrà nominato, e quindi nell'udienza di oggi di fatto il processo è stato riaggiornato a data da destinarsi, una cosa che amareggia molto, dopo 33 anni, no? Dopo 33 anni, i familiari delle vittime, i superstiti in particolar modo, perché appunto allontana, non si sa di quanto tempo ancora, questa sentenza, dicono ormai stiamo morendo anche noi, è un mix tra la pensione del presidente della Corte e l'entrata in vigore della riforma della giustizia, e anche il Ministero ha voluto precisare proprio per mettere le mani avanti che non era colpa della riforma Orlando, che in realtà nella norma è stato soltanto recepito quello che già la Corte Europea dei diritti dell'uomo stabiliva. Grazie. La sostanza però che il processo è rimandato a data da destinarsi. Il processo è rinviato, esatto. Grazie Raffaella Calandra. A proposito di giustizia, ci sentiremo poi tra pochissimo.